24 mattino. Eccoci qua alle 8:18 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. È il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Allora, la notizia di quelle positive: mi sono liberato di Deborah Rosciani. No, scherzo. Non è vero. No, c'è Valeria De Rosa non qui, ti buongiorno. Non libererai mai di Deborah Rosciani. Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Valeria De Rosa oggi con noi. Allora, Valeria, oggi parliamo del gioco, visto che gli italiani la propensione al gioco ce l'hanno. Il gioco di che tipo? Tutti i tipi di giochi, dall'otto, Super Enalotto, giochi di abilità, tutto quello che si può, su cui si può scommettere, che si può, su cui si può giocare, e gli italiani sono molto propensi a farlo anche in tempi di crisi e in tempi, diciamo, di non crisi, anche se in questo periodo dobbiamo dire che il gioco prende molto, sembra prendere molto. Consideriamo che nei primi 4 mesi dell'anno la raccolta totale complessiva è stata superiore ai 17 miliardi di euro, un incremento di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Scommetto che anche tu qualche volta hai giocato. Ma io no, caschi male, sono come ti dicevo prima, gioco raramente. Non ci credo, dopo approfondirò il tema meglio, ma adesso però invece voglio approfondirlo e seriamente, più seriamente, con il nostro ospite che è il dottor Renato Ascoli, direttore generale di Lottomatica, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, dicevamo, dottor Ascoli, pare che, può sembrare che in tempo di crisi gli italiani siano più propensi al gioco, oppure dobbiamo pensare che, come dire, questa sia una propensione naturale propria dell'italiano? Ma guardi, direi buona la seconda, cioè gli italiani sono molto affezionati al gioco. Pensi soltanto che il lotto è un gioco vecchio, tra virgolette, di 500 anni, quindi non accenna a essere, diciamo, dinamico e positivo. In realtà non è che la crisi stimoli una maggiore frequentazione dei giochi. Quello che noi vediamo dal nostro osservatorio è che si continua a giocare, è come se gli italiani facessero più fatica a rinunciare alla piccola spesa per il gioco piuttosto che sacrificare altre poste della loro spesa corrente. Considerate anche che la spesa media per il lotto è di 2 euro, quindi è una giocata abbastanza piccola, nel caso del Gratta e Vinci di 3 euro, poco più. Quindi è come se nel momento in cui uno dedica un po' di soldi al cappuccino al bar e alla prima colazione non rinuncia anche ad agganciare una piccola speranza di vincita. È come se sostanzialmente gli italiani fossero legati a questa aspettativa di poter avere un sogno realizzato, di poter avere la possibilità di realizzare magari qualche soddisfazione nascosta nel loro pensiero. Tutto sommato è un sogno a buon mercato, al quale devo dire che anch'io ogni tanto cedo. Ogni tanto mi reco a giocare questi 2 euro, tanto per vedere che cosa può succedere, come potrebbe cambiare la mia vita. Però cerchiamo di capire com'è anche cambiato il mondo del gioco. Lei diceva che il lotto è un gioco molto molto vecchio, nel tempo si sono modificati i giochi e con le liberalizzazioni introdotte dal ministro Bersani si è avviata anche una sorta proprio di legalizzazione di tutto quello che è il mondo gioco, ad esempio il poker online e tutti certo. I giochi di abilità. Come si è evoluto questo mondo, come è cambiato nel corso degli ultimi anni poi soprattutto? Ma ci sono due grossi fenomeni. Quello, diciamo, quantitativamente più importante è quello che riguarda le cosiddette, noi le chiamiamo le slot machine, cioè gli apparecchi da intrattenimento. Questo era un mondo interamente in mano alla illegalità, era sostanzialmente il mondo dei videopoker, di soldi che erano destinati poi a organizzazioni malavitose, e nel giro di 3 anni questo mondo oggi viene tutto, diciamo, intercettato dai concessionari dello Stato, che hanno messo sotto controllo una quantità di denaro che va attorno ai 22-23 miliardi di euro all'anno. Quindi questa non è evidentemente la nascita di un nuovo gioco, è l'emersione di un gioco interamente nero, e in questo momento è venuto alla luce e controllato. Il secondo elemento di emersione in questo senso è quello legato alle scommesse. Le scommesse venivano fatte, forse in qualche misura vengono tuttora fatte in maniera illegale, molti giocatori andavano a scommettere su siti.com esteri e quindi dirottavano le entrate e i soldi su siti stranieri. Oggi questo settore, grazie appunto all'effetto della legge Bersani, è stato di nuovo messo sotto controllo e quindi ogni giocata è soggetta a una tassazione, quindi è come se si potesse dire che i giocatori si stanno sottoponendo a una tassazione volontaria tutte le volte che giocano a questi giochi. Le scommesse sono una fetta molto importante del mondo dei giochi complessivi, parliamo di una cifra tra i 5 e i 6 miliardi. Il poker ha una dimensione ancora molto bassa, perché la stimiamo tra un miliardo e mezzo quest'anno, però di nuovo è molto interessante, perché quello che sta accadendo è che con i giocatori stanno abbandonando dei siti anche pericolosi, rischiosi, con bassa probabilità poi di restituire effettivamente delle vincite, e stanno preferendo i siti che sono, come dire, battezzati col bollino blu della certificazione, certo, dei monopoli di Stato. Diciamo che questo fenomeno, questo processo della legalizzazione rende il gioco più attraente per entrambe le parti, sia per lo Stato ovviamente, che dato che tutto il gioco complessivo genera un volume d'affari almeno nel 2008 superiore ai 47 miliardi, il che ha voluto dire poi che all'erario sono stati trasferiti oltre 7 miliardi, e anche per il giocatore, dato che questa legalizzazione forse riesce a contenere la passione entro dei limiti sani. Sì, beh, questo è un punto sempre che noi concessionari dobbiamo guardare con molta attenzione. In questo devo dire l'automatica ne ha fatto anche un po' un punto d'onore, perché siamo stati i primi concessionari in Italia che hanno raccolto la sfida lanciata dai monopoli di Stato. Ci siamo dati una specie di codice deontologico di comportamento, abbiamo fatto per primo una specie di bilancio sociale e su questo ci misuriamo ogni anno. Noi abbiamo prima di tutto un codice interno che ci obbliga a tutte le volte che noi inventiamo, lanciamo dei nuovi giochi, a definire quali sono le regole e evitare che si generino dei meccanismi compulsivi. Poi abbiamo formato tutta la rete dei nostri distributori per metterli in condizione di capire quando fermare alcuni comportamenti dei giocatori. Certo. Terzo, abbiamo anche mandato un po' provando anche a educare, anche se è una parola grossa questa, i nostri giocatori attraverso una forma di autovalutazione, cioè abbiamo distribuito alcune brochure, alcune dispense in cui loro possono un po' misurare i propri comportamenti, capire qual è il livello di rischio che possono... Certo, e fare una sorta di autoanalisi. Esattamente. Dottor Ascoli, le devo chiedere di essere molto breve, ma volevo da lei velocemente una spiegazione di questo nuovo gioco, il 10 e l'8, ma proprio in due parole. Il 10 e l'8 è una piccola variante al gioco dell'8, è diciamo nato una settimana fa, siamo assolutamente entusiasti del modo in cui è stato accolto dal mercato. È molto semplice, uno sceglie 10 numeri, ne riceve 20 e li confronta, si vince con 5, 6 o fino a 10 numeri, e la cosa più divertente è che si vince anche con lo zero, cioè gli sfortunati vincono. Questo è molto bello. Esatto. grazie al dottor Renato Ascoli, direttore generale di Lottomatica, a lui buon lavoro e buona giornata. Buona giornata a voi. Noi continuiamo a parlare di gioco oggi, lo farà il collega Nicoletti nell'appuntamento con Melo, che invece oggi è a Salvadanaio, perché ci sarò ancora io a Salvadanaio. Certo, quindi sono liberati anche lì di Demo. Neanche gli ascoltatori. Scherzo, no, perché poi ci scrivono già, no? Domani ci sei ancora tu, ma sì, poi però torna da lunedì. Torna Deborah, parliamo di digitale terrestre alle 12, poco dopo le 12. Le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle notizie in primo piano. Il presidente americano Obama ha presentato la riforma del sistema finanziario, definita la più importante dal 1929. Tra le proposte che dovranno essere discusse dal Congresso, superpoteri alla Federal Reserve, istituzione di un'agenzia di protezione dei consumatori e una stretta sui derivati che hanno amplificato la crisi economica. In Iran nuove manifestazioni ieri dei sostenitori di Mousavi contro il risultato delle presidenziali da cui è uscito rieletto Ahmadinejad. Anche la nazionale di calcio ha giocato con un polsino verde come sostegno ai riformisti. Per oggi Mousavi ha chiamato i sostenitori a osservare una giornata di lutto. E stasera per lo sport, il calcio, l'Italia è nuovamente in campo per la Confederations Cup in Sudafrica, si affronta l'Egitto. Nel pomeriggio invece l'altra partita del girone, Stati Uniti-Brasile. Tutto questo alle 8:33 minuti. Ovviamente non ho messo tra le notizie in primo piano, ma ne parliamo ora, la vicenda di Bari, che è deflagrata letteralmente da ieri da un'intervista, da un reportage sul Corriere della Sera, un'inchiesta che parte nell'ambito della sanità nei confronti di un paio di imprenditori. Ci sono delle intercettazioni, pare, e da lì si arriverebbe anche alla vicenda di presunte feste in alcune delle residenze, Palazzo Grazioli o in Sardegna, di Silvio Berlusconi, alle quali avrebbero partecipato alcune donne in cambio di soldi. Insomma, oggi avete sentito anche la rassegna stampa, ne è pieno anche con connotazioni politiche. Io saluto Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, buongiorno. Fiorenza? Fiorenza? Eccomi, eccoci, buongiorno. Qua. Allora, sei tu che ieri hai intervistato, tra l'altro, Patrizia D'Addario, che è attualmente anche candidata per il PDL al Comune di Bari, e che ha detto sostanzialmente di avere partecipato dietro compenso a una di queste feste. Oggi sul Corriere dici ci sarebbero altre tre ragazze che dicono sostanzialmente la stessa cosa, è così? Sì. Noi sappiamo che il pubblico ministero, che ha avviato questa indagine 15 giorni fa, ha ascoltato almeno altre tre ragazze il cui nome era appunto comparso nelle intercettazioni che riguardano Giampaolo Tarantini, e queste ragazze avrebbero appunto confermato il racconto che ha già fatto Patrizia D'Addario, cioè di essere state contattate da questo Giampaolo Tarantini per partecipare a queste feste a Palazzo Grazioli o a Villa Certosa, e lui avrebbe appunto offerto loro dei soldi che poi sono stati dati. Tu parli anche di incontri, di alcuni nastri, di alcuni video che Patrizia D'Addario avrebbe depositato agli atti, che dimostrerebbero la sua presenza lì. Questo dice, il fatto che dimostrerebbero la sua presenza lì, lo dice lei. Questi nastri effettivamente sono stati consegnati al magistrato. Su questi nastri ci sono delle registrazioni di conversazioni dove si sente appunto una voce femminile e una voce maschile. E poi c'è questo video, sono una sorta di, diciamo, sequenza fotografica fatta con un telefonino all'interno di una stanza. Lei si riprende, poi riprende tutto intorno la stanza, e appunto questo servirebbe, questo lei ha spiegato al magistrato, proprio per dimostrare che lei è entrata a Palazzo Grazioli e dimostrare che appunto lei ha parlato con il Presidente del Consiglio. Queste conversazioni, cioè quello che nelle parole che si sentono in questi nastri, c'è quello che poi lei ha raccontato. Ci sono, diciamo, i contenuti delle conversazioni che poi lei ha raccontato. Naturalmente adesso il magistrato dovrà fare tutte le verifiche, come sempre si fa quando esistono quando esiste materiale fotografico o audio, quindi bisogna capire le voci di chi sono, bisognerà vedere se questo video effettivamente è stato girato all'interno di Palazzo Grazioli. Allora, io voglio salutare, ci ascoltano anche come collega, il vice direttore di Libero, che è con noi, Gianluigi Paragone, buongiorno. Libero, che oggi titola Casino Italia, buongiorno Paragone. Buongiorno, buongiorno. E poi voglio salutare anche l'onorevole Nicolò Ghedini, buongiorno onorevole. Buongiorno. È anche l'avvocato del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Onorevole Ghedini, lei credo già in un'intervista anche oggi al Corriere ha detto non temiamo nulla, non c'è sostanzialmente nessun pagamento mai effettuato nei confronti di donne da parte del Presidente del Consiglio. Ribadisce questa linea sostanzialmente, e che ne pensa, insomma, di quello che è uscito sui giornali a partire da ieri? Guardi, ovviamente questa è la linea che ribadisco, ma io credo che sui giornali stiano uscendo delle notizie assolutamente non controllate e che dovranno essere attentamente verificate nel prosieguo. Qui ci sono delle dichiarazioni che a me risultano del tutto inveritiere, e quindi ci riserviamo poi ogni valutazione dopo averle controllate e aver sentito anche l'autorità giudiziaria. certamente non ci può essere alcuna problematica nei riguardi del Presidente del Consiglio, perché se qualcuno si porta dietro in una cena, in una serata, soggetto che presenta come fidanzata, è impossibile conoscere la storia pregressa di questo soggetto o l'eventuale rapporto effettivo che esiste con l'amico invitato. Senta, onorevole, quindi, lei però ha utilizzato anche in un'intervista, ha fatto molto discutere, devo dire anche oggi Giuliano Ferrara, guardi, l'avrà letto, la bacchetta un po' sul foglio, questo termine che lei ha utilizzato, e cioè ancorché fossero vere le dichiarazioni di questa ragazza, lei ha detto, è vere non sono, il premier sarebbe stato, secondo la ricostruzione, l'utilizzatore finale, quindi mai penalmente punibile. Su questo utilizzatore finale, visto che si parla di donne, insomma, come sa, insomma, non è pentito di aver usato questo termine? Senta, guardi, se si vogliono fare polemiche sulle cose serie, io sono sempre disponibile. Se qualcuno, invece di scrivere sciocchezze, si leggesse un codice penale, scoprirebbe che questo è un termine di natura giuridica abitualmente utilizzato. Chi per esempio assume sostanze stupefacenti e le acquista viene definito l'utilizzatore, quindi non è che ci possiamo schermare dietro dei termini che possono apparire crudi. Quando si parla di termini giuridici e si chiede un'opinione tecnica, al di là del giudizio che noi possiamo dare, è ovvio che si usano termini tecnici. Il termine stupratore, per esempio, non è certamente un termine gradevole, ma è un termine che si utilizza nell'ambito della pratica codicistica. Quindi dice, non è che avrebbe... Io ho fatto un'esemplificazione di natura tecnico-giuridica ad una domanda di natura tecnico-giuridica, di tipo squisitamente astratto. Dopodiché, se i giornalisti si vogliono esercitare su questo, che lo facciano pure. Voglio andare un attimo da paragone. Casino Italia, oggi Vittorio Feltri, direttore di Libero, non lo cita, ma insomma parla, e questa è anche la questione politica che c'è dietro, di quello che sarebbe il presunto mandante. Ci si ricorda un paio di giorni fa della famosa riferimento alla scossa in arrivo per la maggioranza fatto da Massimo D'Alema, che ora ha detto, attenzione perché vi denuncio a chiunque pensi che io sapessi già prima, però Libero ha questa linea, no paragone? Noi partiamo da quelle frasi che ci sono state, poi è imbarazzante che ormai tutto debba finire sempre a carte bollate, io vi denuncio, e allora cosa si dovrebbe dire rispetto alla frase inquietante che comunque D'Alema ha pronunciato? Questa scossa vuol dire che il paese è vicino ad un terremoto politico, ad un terremoto che può avere dei risvolti giudiziari, cioè a me veramente il titolo oggi è azzeccatissimo, Casino Italia. Perché poi ci lamentiamo se Ghedini giustamente fa ricorso al vocabolario tecnico-giuridico nel momento in cui ormai ci stiamo appassionando soltanto a queste cose qua, cioè a inchieste, tra l'altro inchieste che guardano e spiano il buco della serratura, dove una ragazza arriva col registratore, dove mi sembra tutto inzuppato di malafede. Ma si può andare a casa di uno col registratore? E già uno va a casa di uno che poi è Presidente del Consiglio, perché gli deve dire che vuole fare il residence, che tra l'altro poi questo residence neanche arriva, lei si sente tradita perché il Presidente Berlusconi non avrebbe mosso un dito per cambiare la destinazione d'uso. Cioè tutto mi sembra inzuppato di mala fede. Qui ci lamentiamo che non si parla di politica, poi quando il Presidente del Consiglio va in America e fa politica, macina politica e ha dimostrato di macinarla ad altissimo livello, perché con Obama c'è stato un incontro ad altissimo livello, e poi vogliamo continuare a parlare una volta di Noemi per due mesi, un'altra volta adesso di questo Daddario chissà per quanto tempo. Questo ormai è un dibattito inzuppato di malafede. Fiorenza Sazzanini, devi replicare a questo, insomma. Perché è chiaro, mica me la prendo con la... No, ma perfetta. Fiorenza, è come dice, come ha detto anche il Presidente del Consiglio... No, come ha detto Berlusconi, ha detto spazzatura, questa è in una nota di Palazzo Chigi. Però bisogna sempre ricordare che è una spazzatura candidata in una lista del PDL, quindi... Può essere, certamente noi stessi abbiamo molto preso le distanze da questa signora, contestandole anche appunto il fatto che una vada a una festa, sia pure a pagamento, quindi non è proprio la stessa cosa, quindi comunque già diciamo la premessa che una va a una festa a pagamento ed è comunque strano che si porti il registratore. Lei dice, a parte che lei è una che già in passato ha registrato altri incontri con altre persone, adesso appunto anche questa è una stranezza in questa vicenda, perché qui a Bari lei diciamo è una persona tra virgolette nota, perché 3 o 4 anni fa, proprio grazie alle sue registrazioni, lei ha fatto arrestare il suo diciamo fidanzato perché la picchiava e perché l'aveva inserita in un giro di prostituzione. Lei ha portato le registrazioni alla questura e lo ha fatto arrestare, quindi diciamo che certamente lei è una persona in questo con precedenti noti, e questo rende ancora più strano il fatto che poi si sia deciso di candidarla a una lista per il comune di Bari. Comunque certo è possibile, ci sono sicuramente delle stranezze in questa vicenda che infatti, ripeto, la magistratura sta verificando con attenzione. È stata lei a proporre al Corriere di voler raccontare questa storia, essendo anche una testimone d'inchiesta, noi con mille cautele, avvertendo il lettore più volte che appunto questa era una versione che si sta verificando, ma che sicuramente ha dei fondamenti, perché appunto lo stesso avvocato Ghedini non nega che lei sia stata a Palazzo Grazioli, però dice c'era stata presentata come la fidanzata della persona che l'ha accolta. Sì, parlava in generale, parlava, non ha fatto il nome da dare. Onorevole Ghedini, sì, questo ha già chiarito, lei parlava in generale, faceva un discorso ipotetico, insomma, non si riferiva. Non succederà come l'utilizzatore finale, ma davvero voglio dire, non è minimamente pentito, lei il codice lo conosce, ma poteva utilizzare mille termini, magari uscire per un attimo dal codice, insomma, mettere un attimo da parte e utilizzare un altro. Guardi, non c'è dubbio che ciascuno di noi sbaglia 9 volte su 10, è ovvio che quando in una giornata abbastanza convulsa rilasci 30 dichiarazioni, puoi usare dei termini che al grande pubblico appaiono infelici. Se questo termine ha potuto offendere la sensibilità di qualcuno, è ovvio che me ne dispiace e me ne scuso, ma è lessico familiare per me e quindi non ci ho assolutamente pensato. È evidente che tra il lessico familiare giuridico e la politica c'è una differenza e quindi cercherò in futuro di stare più attento, ma vorrei che fosse ricordato il principio della buona fede, e cioè che è evidente che chi fa l'avvocato utilizza dei termini che magari non sono sono strettamente tecnici. Nella vita comune. Domanda conclusiva. Mi piace se questo ha potuto provocare fastidio a qualcuno. Onorevole Ghedini, domanda finale, strettamente politica, le chiedo però di rispondermi in 40 secondi, non di più. La vicenda D'Alema, cosa ne pensa? E le chiedo, davvero lei pensa che non possano esserci contraccolpi politici da queste inchieste al PDL e a Silvio Berlusconi? Ma io credo che potrebbero esserci dei contraccolpi politici per il PD, perché dovrà D'Alema davvero spiegare come mai aveva delle notizie che poi si sono rivelate incredibilmente fondate 2 giorni dopo. Quindi io credo che i contraccolpi ci saranno casomai per loro, ma certamente non per noi. Ormai credo che gli italiani abbiano un'idea assolutamente ben precisa di Silvio Berlusconi e di un uomo che fa politica e fa politica davvero. La ringrazio, onorevole Niccolò Ghedini, così come ringrazio Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera. Devo specificare, scusami, sì, una cosa. Ha ragione l'avvocato Ghedini quando chiede come mai D'Alema facesse saperlo. Posso dire che qui a Bari abbiamo scoperto, non solo io giornalista, sì, che di questa inchiesta si sapeva ormai da almeno 10 giorni. Un po' di tempo. Però insomma, che è stato. Grazie Fiorenza Sarzanini, grazie anche a Gianluigi Paragone, vice direttore di Libero. Eccoci qua, le 8:50 minuti. Voglio salutare l'assessore alla Polizia Locale e Sicurezza del Comune di Monza, Massimiliano Romeo. Assessore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Della Lega, no? Dico sì, della giusto. Lega. No, va bene. Senta, il Comune di Monza ha fatto un'ordinanza, l'ha messa appunto lei con un collega delle attività produttive, un collega assessore. Sostanzialmente dal 1 luglio sarà molto più difficile per i sedicenni o chi è sotto i 16 anni comprare alcolici, è così? Cioè, cosa avete fatto? Sì, sì, è così. Abbiamo messo a punto questa ordinanza proprio per cercare di, insomma, contrastare un fenomeno, ahimè, nel nostro paese in crescita, ossia il consumo di bevande alcoliche da parte di minorenni, soprattutto in età compresa tra gli 11 e i 15 anni. E quindi con questa ordinanza stiamo facendo, almeno la nostra intenzione è quella di vietare. Ovviamente che i supermercati, piuttosto che i locali pubblici, piuttosto che i ristoranti, possano vendere delle bevande alcoliche a dei minorenni che poi vanno a consumarle nei parchi, nei giardini pubblici, piuttosto che nei parcheggi della nostra città. Cioè, uno che non ha 16 anni andrà dal 1 luglio in un supermercato a Monza, arriva alla cassa e si vede chiedere la carta d'identità se c'ha una birra. Esatto, anzi, proprio grazie alla collaborazione dell'Unione dei Commercianti, perché diventa fondamentale in questo avere la collaborazione di tutti gli esercizi commerciali, saranno loro che di fronte ad un ragazzino che possa dimostrare davvero un'età compresa tra gli 11 e i 16 anni, alla fine possa davvero chiedere la carta d'identità e quindi non vendere la bevanda alcolica. Questo è un po' lo scopo. Questo è lo scopo. Devo dire, beh, i commercianti tra l'altro incappano in multe se violano questa ordinanza, no? Mi sembra di capire, cioè multe fino a 500 euro. Lei dice collaborazione dell'Unione Commercianti, chissà, forse non tutti saranno contenti, voglio dire, adesso ad avere anche questa incombenza di dover esaminare le carte d'identità a chi ti viene a chiedere una birra. Beh sì, come diceva lei, la multa sarà appunto su quella cifra, adesso poi noi prevediamo la misura ridotta intorno a 400 euro, però io dico, su un tema del genere penso che la sensibilità di un titolare di un esercizio pubblico sia assolutamente alta e quindi che non sia per loro un problema chiedere la carta d'identità, perché poi è ovvio che, insomma, è vero che i commercianti devono vendere i loro prodotti, però esiste anche una moralità che è stata più che espressa dal Presidente dell'Unione dei Commercianti, ma che ho visto anche leggendo anche oggi i giornali dove sono stati intervistati diversi titolari. Insomma, penso che ci sia però una condivisione di massima da parte di tutti, perché il tema è un tema molto delicato. No, il tema è molto delicato, questo sì. C'è da dire che io leggevo ieri con curiosità, quando l'ha pubblicata per esempio il Corriere.it, con i commenti sotto di moltissimi lettori, ovviamente, che dicono i loro commenti, c'è anche chi dice però in maniera molto critica, dire, ma insomma, la solita politica repressiva che poi porta i ragazzi quasi a voler sfidare queste ordinanze, quasi a volere il gusto di volerla allora violare, e quindi in qualche modo è il vecchio discorso, no, del proibizionismo, l'antiproibizionismo, e quindi in qualche modo a volere incentivare invece l'uso dell'alcol giusto per andare contro, per fare una sfida. Crede che sia questo lo strumento, uno degli strumenti, quello di mettere una legge così dura a dire ti controllo la carta d'identità? Ma io penso invece che sia proprio vero il contrario. Questa non è un'ordinanza repressiva, ma è un'ordinanza educativa. Poi si sa benissimo che poi, fatta la legge, si trovato l'inganno, qualcuno magari chiamerà, manderà il 17enne amico a comprare, vabbè, questo, esatto, è un classico, insomma. Questo è vero, però in linea rispetto a quello che sta succedendo e che succede in tutti gli altri paesi europei, dove si sta andando verso una restrizione della vendita di bevande alcoliche ai giovani, addirittura in alcuni paesi anche ai minori di 18 anni, io penso che in Italia, dove invece non abbiamo una materia legislativa da questo punto di vista, sia importante seguire l'esempio europeo, anche perché la stessa Commissione europea, lo stesso Parlamento, che ci chiedono di intervenire per limitare l'accesso dei giovani alle bevande alcoliche e di coinvolgere proprio i dettaglianti e l'industria della ristorazione nell'applicare delle misure concrete proprio per impedire che alcolici e bevande siano venduti a minorenni. Poi è vero, cioè, l'importante è dare anche un messaggio ai giovani che l'alcol fa male. Sì, l'importante è anche dire, non è che la il contrasto all'abuso dell'alcol si contrasta così, no. Ci vuole la prevenzione, ci vuole l'educazione, eccetera. Però insomma, però bisogna anche lanciare dei messaggi educativi ai nostri giovani, perché sempre più ragazzini oggi, per emulare gli adulti o i giovani un po' più grandi di loro, vanno anziché bere la Coca-Cola o mangiare il gelato, come facevo io quando avevo 13-14 anni, si recano nei locali, si bevono l'aperitivo, l'alcolico, il superalcolico e cominciano male. Caro assessore, sono cambiati i tempi. Lo so, però sono cambiati i tempi, ma non ho detto che perché sono cambiati siano cambiati in meglio. Anzi, quasi certamente in peggio, no? Ma su questo siamo d'accordo. Io la devo salutare e la ringrazio, Massimiliano Romeo, l'assessore alla sicurezza del comune di Monza, la polizia locale in Monza, che ha fatto questa ordinanza dal 1 luglio per i 16, chi è sotto i 16 anni che vuole comprare alcolici in supermercati, locali pubblici, cioè dovunque, deve mostrare la carta d'identità. Grazie, ci fermiamo qui. Laura Marchesi in redazione con Alessandro Marco Tulli e Carmelo Lauricella in regia. Tra poco c'è Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante, l'Iran, quello che sta succedendo in questo paese strategico mondiale, oggi al centro dell'attenzione di Ferrara. 24 mattino e radio24.it, a domani.